Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. Ecco una clip del film Ogni maledetta domenica di Oliver Stone, un film del 99. Qui abbiamo Al Pacino che fa l'allenatore e che parla della coesione del gioco di squadra. Ma il gioco di squadra in Italia, tra le imprese italiane, è una cosa molto rara. Gli imprenditori italiani in genere sono individualisti, sono solisti. Con il 4.0, che è una rivoluzione pazzesca, non è una cosa che riguarda solo i sistemi produttivi, ma è una cosa che riguarda la cultura, la società, l'atteggiamento delle persone, il lavoro, la scuola. Ecco, con il 4.0, con l'interconnessione globale, l'imprenditore, se vuole sopravvivere, deve fare il gioco di squadra. Non ha alternative a fare il gioco di squadra. Oggi ne parliamo con Sonia Bonfiglioli, che è la presidente del gruppo Bonfiglioli, una società meccanica che fa motoriduttori, quasi 800 milioni di euro di fatturato, che ha varato in collaborazione con Porsche Consulting la prima filiera 4.0, cioè vuol dire che l'azienda capofila, che appunto la Bonfiglioli, insieme ai suoi fornitori, agisce come fosse un'unica azienda, condivide tutte le informazioni e condivide tutta la lavorazione, e questo permette ai fornitori, che sono aziende più piccole, di avere finanziamenti, e cambia totalmente tutta la mentalità. Adesso Sonia Bonfiglioli ce lo racconta, poi avremo anche qualche minuto un collegamento con Porsche Consulting, che ha proposto questo metodo che arriva dalla tradizione Porsche e che ce lo spiegherà. Però con Sonia Bonfiglioli vogliamo parlare di tante cose, vogliamo parlare di come cambia l'azienda 4.0, vogliamo parlare di rapporti con i sindacati, vogliamo parlare di lavoro, vogliamo parlare della sua azienda. Ma intanto salutiamo Sonia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come funziona questa filiera 4.0 che avete messo su? È un progetto che abbiamo realizzato insieme alla Banca BNL, e BNL quindi BNP Gruppo Paribas, sì, con l'idea di dare supporto a quello che è la serie oggi dei fornitori che noi per primi abbiamo, ma esistono per tutte le aziende grosse capofiliera. Il concetto è un po' molto semplice, io dico, se noi lo dicessimo con una battuta, tante volte chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, cioè le grandi aziende, le aziende che hanno visibilità, come può essere per noi la Bonfiglioli, non hanno problemi di credito. Dall'altra parte, quando parliamo di trasformazione in ottica digital, vuol dire che tutti dobbiamo prendere questo cambiamento come un'opportunità, quindi non solo pensare a noi e guardare dentro al perimetro della nostra azienda, ma trascinare insieme a noi in questa trasformazione per primi fornitori, che altrettanto hanno bisogno quindi di finanziamenti e di supporto per investire in impianti, per investire in nuove tecnologie e per investire in formazione delle loro risorse. È un tipo quindi di finanziamento che non è sempre così facile per le aziende medio-piccole, che è la tipica azienda che fa parte di una filiera. Quindi praticamente c'è un processo di selezione e accreditamento dei fornitori che dà loro diritto a una corsia preferenziale nell'ottenere il credito da BNL. Però al di là di questo, essere un'unica azienda significa anche condividere le informazioni, stare sulla stessa linea orizzontale, lavorare insieme, non sbaglio? Assolutamente sì, tenga conto comunque che questo fa parte di una cultura ormai consolidata all'interno del nostro gruppo, appena detto che più tardi si collegherà con Porsche Consulting. Per esempio, noi nel processo di trasformazione in logica Lean che abbiamo iniziato ormai intorno al 2010, abbiamo fatto tutta una serie di percorsi di formazione ai fornitori stessi, quelle che vengono chiamate le academy. Non sono state circoscritte ai soli nostri dipendenti, ma hanno coinvolto anche i fornitori. Oggi dobbiamo essere consapevoli che da soli non si va lontani. Si vince insieme, si vince con i fornitori, si vince col territorio, si vince col sindacato, tutti dalla stessa parte. Ecco, a proposito di formazione, in questi giorni sono uscite le anticipazioni su quello che sarà il secondo pacchetto di provvedimenti Industry 4.0. Ci sarà forte attenzione alla formazione e anche un credito di imposta per la formazione, cioè una sorta di incentivo fiscale che permetterà, o anzi faciliterà, le aziende che vogliono investire nella formazione dei dipendenti, che è un capitolo molto delicato, perché l'operaio, la persona che lavora sulle macchine, deve imparare il digitale, e comunque in Italia purtroppo la cultura digitale è poco diffusa. Altre anticipazioni sul secondo pacchetto riguardano la proroga del superammortamento e dell'iperammortamento. Non si sa ancora quali saranno le cifre. Al momento attuale sembra che il superammortamento non sarà forse più del 140% e magari l'iperammortamento non del 250%, perché non ci sono i soldi. Questo insomma è lo stato dell'arte, ma ritorniamo a Sonia. Che cosa vuol dire poi condividere tutte le informazioni? Vuol dire che dentro gruppo avete iniziato un processo di analisi dei big data? Allora, noi abbiamo iniziato ad avere una forte rilevazione dei dati, perché chiaramente i dati oggi, anche semplicemente nel processo produttivo, cominciano a essere estremamente fruibili. Ci sono dati molto importanti, per esempio dal punto di vista della qualità, dal punto di vista del livello di servizio. Sono dati che devono essere condivisi col fornitore per primo. Oggi non esiste più, non è più sostenibile un rapporto puramente basato sul prezzo. Qualunque elemento ci si scambia diventa un qualcosa che deve sempre passare attraverso la motivazione. Si deve accettare che non puoi lasciare dall'altra parte, che sia un fornitore, che sia comunque un'azienda, una persona, delle soluzioni perdenti dall'altra parte. È meglio rinunciare a qualcosa con la consapevolezza che c'è la condizione per continuare a lavorare insieme per un tempo lungo. Ecco, insomma, fare sistema diventa una cosa vera e il network dei fornitori si comporta come un'azienda virtuale end to end. Esattamente. Poi avete fatto un secondo progetto sulla formazione che si chiama Bonfiglioli Retraining e avete anche coinvolto la regione e il sindacato. Però prima mi dice in breve che cos'è questo Bonfiglioli Retraining, poi mi spiega perché era necessario per un progetto di formazione coinvolgere anche la regione e il sindacato. Allora, è un progetto secondo me molto bello, perché quando si parla oggi tanto di Digital Industry 4.0, giustamente ci si focalizza molto sulle tecnologie, sul fatto di introdurre macchinari pensanti, però ci dimentichiamo secondo me due elementi, che prima di tutto, anche per togliere diciamo dal terreno certe notizie a volte che angosciano me per prima, che gli uomini sono sempre loro che devono definire e mantenere il passo di questa trasformazione, e la roba che noi come azienda abbiamo ragionato forse un po' diciamo per primi rispetto ad altri. Giustamente si fa tanta enfasi sul supportare i giovani nella scelta di indirizzi che gli permettano alla fine del percorso di formazione o di scuola superiore o di università di accedere a un posto di lavoro, però ci dimentichiamo dei milioni e milioni di persone che stanno lavorando, che vanno formate continuamente. Quindi voi che cosa fate per questi dipendenti? Allora, noi abbiamo lanciato questo nuovo programma insieme quindi alla regione, al sindacato e a Porsche, di definire innanzitutto quali sono gli skill che verranno richiesti, fare l'analisi dei gap, questa è un'attività di screening che fa Porsche, definire il percorso di riqualificazione, proprio perché io dico non servono tutti ingegneri e fenomeni, in modo che un nostro operaio che oggi sta lavorando magari su un impianto più tradizionale prima di tutto non tema la trasformazione digitale, ma se ne senta parte, dandogli le nuove competenze che serviranno. Questo l'abbiamo detto in tante puntate di Fabbrica 2.4, per il 4.0 ci vogliono competenze, ci vuole formazione, si investe sulle persone, ma io non capisco che bisogno c'era di coinvolgere la regione e il sindacato, cioè uno forma i suoi dipendenti e dovrebbero essere tutti contenti naturalmente. Ma l'idea è stata innanzitutto che siccome noi questo tipo di attività l'avremmo fatta comunque, perché abbiamo in ballo circa 130 milioni tra immobili e nuovi impianti in Emilia-Romagna, e siccome 130 sono milioni di investimenti per far funzionare i quali occorre formare i dipendenti. Esatto, e siccome le competenze fuori, schillate con queste competenze, non si trovano, ci siamo detti, noi viviamo in Emilia-Romagna, che è un territorio per nostra fortuna molto dinamica, con forte richiesta di assunzioni, perché c'è il packaging, perché c'è l'automotive, perché ci sono le sigarette elettroniche che sono prodotte qua adesso. Quindi abbiamo detto, ma se poi noi li formiamo li perdiamo. Allora abbiamo detto, ma perché non facciamo che la ricchezza di questa nuova competenza digital diventa così diffusa sul nostro territorio che non abbiamo bisogno, paura di perderli. Quindi abbiamo interfacciato la regione, che hanno apprezzato questa idea, visto che anche loro hanno una dinamica. Quindi vuol dire che voi formate anche persone esterne al vostro gruppo? Sì, noi abbiamo sia una percentuale nel gruppo che verrà, non, il primo gruppo NASCO, vengono formati i formatori, quando parte la formazione c'è una parte di figure esterne che noi abbiamo identificato in quelli che sono gli interinali, che hanno sempre, diciamo, questa connotazione di lavoro precario e con l'idea che possono avere degli skill digital, con l'auspicio che possano poter ambire a un lavoro magari più qualificato. Interessantissimo, devo interromperla per avvisi sul traffico e pubblicità, restate con noi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Afectuoso para nuestro amigo Pino Enseño y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Enseño, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Enseño y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente, su Radio 24. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4, oggi è sabato e stiamo parlando con Sonia Bonfiglioli. Ci parlava di questo programma Bonfiglioli Retraining, formazione in Emilia-Romagna per il 4.0. Nel 4.0 la Bonfiglioli è una delle aziende più avanzate e ci diceva che la novità, per cui hanno coinvolto anche la regione e il sindacato, è che la formazione non viene fatta solo ai dipendenti della Bonfiglioli, ma anche a persone esterne o sul territorio, perché l'idea è che più il territorio è ricco di competenze, più se ne avvantaggiano in generale le aziende che vi insistono, giusto Sonia? Giustissimo. Ah. E come mai il sindacato è stato coinvolto? Ma il sindacato è stato, diciamo, il nostro primo interlocutore, perché quando ci siamo trovati, diciamo, un anno fa, ho chiamato proprio quello che è stato il mio compagno di tante lotte, perché io sono stato uno un po' bellicoso in passato, ma nel senso compagno che era dall'altra parte della barricata. Il suo avversario, il suo nemico. Il mio avversario, che adesso lo chiamo compagno di tante lotte, e gli ho detto, ma vi rendete conto voi che in questo momento state perdendo un'opportunità? Perché la gente teme questa trasformazione e non la si può fermare. Quindi da lì, diciamo, quindi è stato chiamato in merito e in causa sin dall'inizio, proprio con l'idea di condividere il percorso, quindi con l'idea di dire noi facciamo qualcosa che deve servire alle nostre persone. L'idea di tanto è vero che nei formatori, uno dei 15 formatori è uno dei ragazzi di quello oggi si chiama l'RSA. Quindi comunque coinvolgendo... Così formerà dei sindacalisti, gli insegnerà digitali a protestare nell'era digitale. Esatto, formeremo dei sindacalisti digitalizzati. Che no, comunque è necessario, perché è anche le relazioni industriali poi si evolvono. È inutile che uno adotti le stesse logiche delle tute blu, deve cambiare le logiche. Ma soprattutto questo perché le battaglie le dobbiamo fare fuori, sul campo, in un mondo che sta avanzando velocissimo, con paesi come l'India e la Cina che stanno investendo moltissimo nella digital transformation, e se noi ci arrovegliamo, accogliamo ancora di questi vecchi conflitti interni, restiamo fermi e il mondo ci passa, il treno ci passa andando avanti. Senta, ma lei come vede il ruolo del sindacato in questo momento storico? Secondo me il ruolo del sindacato ha comunque una valenza importante, perché anche semplicemente avere un interlocutore che ti colletta quelli che sono bisogni di un gruppo è importante, perché sennò rischi veramente di parlare con decine di persone e ognuno veramente le dice il tutto e il contrario di tutto. Credo che anche loro oggi, cosa che però sta secondo me avvenendo, perlomeno in Emilia Romagna, si stanno ponendo davanti proprio a questa nuova sfida. Perché la crisi ha distrutto le aziende, alcune sono riuscite a sopravvivere, comunque la crisi ha distrutto un modello. Oggi siamo insieme a costruire un nuovo modello. Ecco, ma il sindacato in Italia è adeguato a sostenere questa parte oppure è ancora indietro? Allora, io posso dire, come tutto, c'è un sindacato che sta cambiando, c'è un sindacato che è indietro, altrettanto quanto ci sono delle aziende che stanno cambiando e ci sono delle aziende che sono indietro, oppure nel mondo, diciamo, anche del pubblico, c'è chi sta capendo che è una trasformazione da fare e chi non lo coglie. Quindi non credo valga la pena generalizzare, però dobbiamo sforzarci di aiutare chi fa più fatica a cogliere questo momento, che se noi siamo fermi, se non capiamo l'importanza di trasformarci, ne va veramente di tutto il sistema, non solo del sistema imprenditoriale, del sistema dell'industria, dell'occupazione, ma veramente del sistema paese. E quindi dobbiamo sforzarci di non lasciare nessuno indietro e trasformarci tutti. Certamente. Senta, ma forse l'Italia è un po' spaccata in due, perché alla fine l'80% dell'export è fatto dal 20% delle imprese. Inoltre, Mediobanca dice che la maggior parte del valore aggiunto lo producono 3.600 medie imprese, tutti gli altri seguono da lontano o sono in uno stato di crisi. Abbiamo una minoranza virtuosa che tiene in piedi tutti gli altri che o sono 6 meno o stanno per chiudere. Purtroppo si è molto acuito questa situazione bianco-nero, credo che le tonalità di grigio sono in parte calate anche perché il contesto competitivo è diventato oggi estremamente alto. Ecco, insomma, parafrasando il famoso libro sul sadomaso che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, possiamo dire che non ci sono sfumature di grigio. Vabbè, torniamo seri e parliamo un po' di queste aziende che sono spiaggiate e che sono veramente un problema per l'Italia. Non credo comunque che possiamo permetterci di perdere quelle decine, migliaia di aziende. Ah, che ma vuol certo dire... che no. Quindi quando per esempio il nostro modello di Bonfiglioli Digital Retraining, l'abbiamo anche, diciamo, proprio come analisi, come modello, quando sarà completato tra alcuni mesi, lo diamo disponibile alla regione perché lo possa utilizzare nei suoi percorsi di formazione sia di persone che di giovani che di persone che lavorano. Lo scopo è proprio quello, che tutti devono essere a bordo della trasformazione, cioè non possiamo pensare di arroccarci, di tenerci patrimonio la conoscenza più è diffusa, più veramente trasforma. Allora, ci colleghiamo adesso per un attimo con Josef Nierling di Porsche Consulting. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi avete portato in Bonfiglioli questo metodo olistico, cioè di trasformare l'azienda come un tutto unico. Ci spiega di che cosa si tratta e come magari questa cosa è nata in Porsche? Certo, è nata in Porsche dal fatto che nell'automotive la casa automobilistica è vista come un direttore d'orchestra. Uh-huh. E questo può rendere pragmaticamente quello che noi vogliamo mettere i piedi in Bonfiglioli, che abbiamo cominciato a costruire. Praticamente il capofila di una filiera riesce a costruire un'azienda virtuale mettendo e collegando tutti i pezzi che poi fanno sì che il prodotto arrivi al nostro cliente. Quindi immaginate che noi comunichiamo, quando parliamo del nostro prodotto, al di là delle Alpi con la Brembo a Bergamo, e facciamo sì che abbiano tutte le informazioni per sincronizzare completamente il loro lavoro con quello della nostra azienda. Quindi una totale cooperazione. Questi principi che sentivo, ne parlavate con Sonia Bonfiglioli, sono gli elementi chiave e che oggi possono essere rafforzati proprio dalla digitalizzazione. La digitalizzazione permette la connettività e questo è il segreto alla fine di quello che sta dietro. Ecco, tra l'altro io vorrei far notare che questo significa creare più marginalità, essere più produttivi, creare valore aggiunto. Se si crea valore aggiunto, si crea ricchezza, quindi non è vero che queste tecnologie distruggono posti di lavoro, anzi ne creano. Sull'argomento ci sarebbe da parlare molto a lungo e lo faremo nelle prossime puntate di questa trasmissione, però purtroppo adesso dobbiamo chiudere. Viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva i robot. Buon sabato a tutti.